Il punto di Stefano Folli. Con il coraggio un po' temerario del giocatore di poker, Renzi ha rilanciato. Gli avevano detto di non esagerare con le slides e lui invece le ha riproposte. Quei numeri proiettati sul grande schermo sono fatti per impressionare di nuovo gli italiani, per trasformare un passaggio scomodo, qual è la presentazione della manovra finanziaria, in un'occasione quasi gioiosa. 18 miliardi di tasse in meno, quasi una festa, se sarà vero. Per adesso è un atto di fede, l'ultimo che il Premier può chiedere a un'Italia stremata. Se quelle cifre non fossero autentiche, se fra qualche mese si dimostrassero illusorie, le conseguenze sarebbero molto negative, proprio sul terreno che a Renzi preme di più, quello del consenso. Consenso nel paese da parte di tutti coloro che producono e sono schiacciati dalla recessione. Consenso che un giorno o l'altro, non sappiamo ancora quando, ma non troppo lontano nel tempo, dovrà trasformarsi in voti elettorali. Fino ad allora un occhio all'Europa, certo, ma anche un altro all'Italia, a cui si chiede di avere fiducia. Non sarà per sempre e il Premier è il primo a saperlo.